come passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui 18:36 ancora una volta insieme con la Zanzara per commentare i fatti del giorno. 800 24 0024, sms 349 238 6666, la Zanzara @radio24.it, e andiamo con TG2. Tremonti annuncia d'intesa con Berlusconi che si stanno preparando misure per la libertà d'impresa e l'economia italiana cresce al di sopra della media europea. Il guardasigilli Alfano, la protesta dei magistrati contro la manovra è uno sciopero politico. Le toghe, la nostra è una risposta a tagli punitivi. L'ufficio stampa del governo israeliano diffonde per errore un video in cui si fa una parodia del Blitz di Gaza. I pacifisti cantano fare finta che a Gaza ci siano fame e malattie. Esce in Francia un film documentario su Jim Morrison, uno dei miti del rock. Con materiali inediti viene raccontata la sua storia e quella dei leggendari Doors. E beccatevi anche a Studio Aperto. Torna l'incubo dei pirati, uccidono e scappano, due tragedie in poche ore vicino a Pavia, travolto un quindicenne in motorino, nel napoletano morta una ragazza di 29 anni, grave la sorella. Paura a Curtatone nel Mantovano, un bimbo di 10 anni è finito in un canale di irrigazione e non è più riemerso. L'allarme lanciato da un amichetto, vane finora le ricerche di vigili del fuoco e polizia. L'economia italiana è in ripresa e guida la crescita in Europa, a dirlo è l'Eurostat che ha pubblicato i dati del PIL del primo trimestre, risultati da record superiori a Francia, Germania ed Inghilterra. Vi faccio ascoltare qualcosa. Lina Wertmüller ha parlato su Tremonti. Sentite, tagliamogli le palle. Possiamo tagliare la testa a Tremonti, oppure se non la testa almeno le palle. Insomma, io addirittura si è buttato lì. Ma per cosa? Per la manovra? Ma scusa, ma siamo matti, noi siamo l'Italia. Tagliamo l'arte e la cultura, ma bisogna mandargli un dottore a quel signore lì. Naturalmente anche Mario Monicelli contro i tagli alla cultura. I giovani soprattutto non devono rassegnarsi, non devono limitarsi a protestare. Protestare ma scendere, muoversi e spingere, anche con la forza, e non tacere. Anche usare la nostra forza giovanile, la vostra, perché io non ce l'ho, la vostra forza giovanile per sovvertire le cose come stanno andando, a casa nostra e in tutto il nostro Occidente. Usate la forza, giovani, usate la forza. Il governo è un'armata Brancaleone in rotta. La nuova armata Brancaleone è il governo dell'istruzione, il governo della cultura, che oggi è come un'armata Brancaleone, cioè di gente senza una meta che va all'avventura, così come capita pur di conquistare qualche cosa che li tenga in piedi. E a proposito di fratelli massoni, mentre il paese è in subbuglio, l'avete sentito, almeno a sentire le parole della Wertmüller e di Monicelli, il Partito Democratico il 7 giugno parlerà dell'eventuale esclusione della partecipazione, dell'iscrizione dei massoni al partito. Ci sono un sacco di massoni appartenenti cioè alla massoneria iscritti anche al Partito Democratico, questa è una realtà. Il Partito Democratico, almeno una parte del Partito Democratico, vorrebbe cacciarli. Fioroni, ieri sera qui da noi. Io ritengo che il Partito Democratico, che ha scelto di investire su alcuni valori fondamentali, quello della propria autonomia e della propria libertà, deve rispondere delle proprie scelte, dei propri progetti e dei propri programmi direttamente agli elettori e ai propri iscritti e non ad altre associazioni che liberamente o con segretezza hanno idee e progetti che perseguono con altrettanta volontà e con altrettanta caparbietà. Bene, Gustavo Raffi, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene. Gran maestro del Grande Oriente d'Italia, come la devo chiamare, Raffi? Dottore, io, maestro? Io sono romagnolo, quindi può anche abbandonare i titoli altisonanti. Vabbè, come la chiamano di solito? Ma io normalmente faccio l'avvocato. Vabbè, ma lei in realtà a tempo pieno fa il grande maestro del Grande Oriente d'Italia, del GOI, insomma, no? Quando il Grande Oriente d'Italia, perché il GOI è un acronimo che suona anche male. Suona malissimo, devo dire la verità. Malissimo. Sembra che cosa il GOI? Sembra una sigla di un centro per fare lo yoga, una cosa di questo tipo. Ma lei dove si trova? In quella che è considerata la reggia del GOI, del Grande Oriente d'Italia? In uno studio, nel mio studio a Ravenna, con pandette, libri, riviste giuridiche. Grembiolini, no? No, i grembiolini. Grembiolini, tutte le cose hanno un tempo e un luogo. Un avvocato indossa la toga quando è nell'aula, sì. Già nei corridoi stona perché diventa un'esibizione. E dunque lei in questo momento è vestito in maniera normale? Normalissimo. Anche senza giacca, non ho clienti davanti. Senta, ma invece quando ci sono le cerimonie, diciamo il classico massone oggi nel 2010, come si veste? Si veste, indossa il grembiule. Sì. Le insegne se ha determinati incarichi. Collare d'oro? Adesso il gran maestro ha un collare storico, quello sì è d'oro, gli altri sono collari molto più semplici. Guanti bianchi? Guanti bianchi, sì. Guanti bianchi, basta. Grembiule di che colore? Beh, dipende, cioè, il gran maestro è verde, sì. È bianco, verde e bianco. Senta, ma quanti massoni ci sono secondo lei iscritti al Partito Democratico? Ieri, devo dire la verità, Raffi, ieri in trasmissione ci hanno chiamati in tanti, soprattutto dalla Toscana, anche dalla Liguria, dalle Marche, insomma tutti quanti un po' basiti per quello che sta succedendo all'interno del Partito Democratico. Ma secondo lei il numero di iscritti sia al Partito Democratico che alla massoneria, quanti sono? Ma il Partito Democratico non lo so, per quanto riguarda il Grande Oriente posso essere esaustivo dicendo che viaggiamo verso i 21.000. Sì, ho capito, di questi 21.000, secondo lei, quelli che hanno una tessera del Partito Democratico, quanti sono? 100, 200, 1000, 2000? Vedi, è un falso problema, perché noi non facciamo i censimenti, cioè non andiamo a indagare per sapere se un fratello milita in un partito, perché non dobbiamo dirigere nessuno. La massoneria esprime non una voce unica della cultura, ma è pluralista. Quindi abbiamo fratelli che votano a destra, votano a sinistra, votano al centro, è un problema loro. L'importante è che professino determinati principi e che soprattutto abbiano il principio della tolleranza come bussola, che significa il dialogo, cioè considerare l'alterità come una ricchezza, quindi il confronto, la ricerca di soluzioni. Senta, e come mai, dato che insomma... i documenti del Grande Oriente d'Italia, quello che fate è trasparente, non siamo più ai tempi della P2 e della cattiva fama che si è fatta la massoneria. Allora, perché il Partito Democratico, scusi un attimo, perché il Partito Democratico si è ingarbugliato su questa vicenda, secondo lei? A mio avviso è un falso problema, con tutto quello che succede in Italia, con la CRIC, con la Fittopoli, Tangentopoli, tutto quello che succede, succederà, ahimè. Andare a dare la caccia al massone mi sembra veramente un qualcosa al di fuori del mondo. Insomma. Lei parla proprio di caccia al massone? Ma insomma, mi sembra di sì, perché poi arrivo ad esaminare un fatto stranissimo. Cioè? Si pone la cosiddetta questione morale. Io ho sentito Fioroni, ma Fioroni di cosa parla? Evidentemente parla per sentito dire, perché non ne ha assolutamente un'idea. Fioroni dice, siccome ci sono delle associazioni che fanno della segretezza un loro punto fondamentale, allora questa cosa qui è incompatibile con il Partito Democratico. Voi siete un'associazione segreta? Ma assolutamente, se c'è una istituzione trasparente basta diciamo così, visitare il sito del Grande Oriente. Vabbè, non è che basta visitare il sito per sapere, no, se no, vabbè, ma quando tu hai fuori diciamo, i nomi della dirigenza, ultimamente ci sono state le elezioni, chiamiamole regionali, sono pubblicati i risultati delle elezioni regionali, ovunque ci incontriamo, addirittura faccio un esempio. Sì. L'Istituto Storico della Resistenza di Pistoia, l'onorevole Barontini, forse perché ha un'ascendenza repubblicana, addirittura pubblicò 2 o 3 anni fa un libro su Domizio Torreggiani, che fu gran maestro e morì al confino. E allora? E allora, per dire, insomma, viaggiamo nelle università, ci confrontiamo con personaggi come Alberto Melloni, Margherita Hack, Giorello, Moravia, il filosofo Moravia. Ma lei, se fosse nelle istituzioni, si fiderebbe di più di un suo fratello o di quello che è il suo punto di riferimento dal punto di vista istituzionale in quel momento? Che è più simpatica. Io quando faccio l'avvocato e devo domiciliarmi presso altro collega e associarlo, perché non sono a Palermo, tanto per dire, a Milano e non posso andarci, cerco un avvocato capace, allora... e poi è anche massone, un tempo si era anche repubblicano. Beh, insomma, se lei si rivolge al fratello prima degli altri? No, assolutamente, anche perché sarebbe una violare le regole. Giuro fedeltà alla massoneria universale, del rito scozzese, antico ed accettato, Ti spengano le luci, gli si tolga la benda dagli occhi. Sei ancora in tempo a tirarti indietro. Vuoi la luce? Sì, voglio la luce. E luce sia! Ti nomino, fratello, apprendista muratore di questa loggia, intitolata al venerabile e glorioso Arturo Toscanini. Muratore. Un borghese piccolo piccolo, 1977, regia appunto di Mario Monicelli con Alberto Sordi. Allora, Raffi, perché il Partito Democratico, alcuni del Partito Democratico, in realtà lei con Bersani ci ha parlato o no? Secondo lei che atteggiamento ha Bersani? Secondo lei? Sinceramente non avrei nessuna difficoltà a incontrare Bersani, suggerirgli prima di incontrarmi di leggere un libro che è uscito anche di recente, e tra l'altro è Storia d'Italia, gli annali, quindi Edizioni Einaudi, ed è un'opera collettanea diretta da un studioso, il professor Cazzaniga di Pisa, che è un uomo di sinistra, e si arriva ai giorni nostri. Allora chieda un incontro a Bersani, Raffi, per chiarire questa cosa. Non ho problemi a chiedere incontri a Bersani o a chiunque. Vedi, io tornando al discorso di Fioroni, con questo ragionamento formulato in via apodittica, allora io dico, allora se un democratico ha iscritto l'Azione Cattolica all'Opus Dei, non lo so, o addirittura un democratico di estrazione cattolica, cosa fa? Gli interessi di Santa Romana Chiesa, quelli materiali? Prima che gli interessi, lei dice, prima degli interessi collettivi, degli interessi delle istituzioni? Guardi, da questo punto di vista il suo ragionamento, secondo me, ieri l'abbiamo fatto presente anche a Fioroni, inattaccabile. Però c'è un problema che mi pone un ascoltatore. Il giuramento fatto dai massoni viene prima della fedeltà alla Repubblica, della fedeltà a un'istituzione, eccetera, o no? La promessa solenne si incardina soprattutto sulla fedeltà al rispetto della Costituzione Repubblicana e alle leggi che alla stessa si informano. Più chiaro di così? È vero anche che lei, quando fu eletto l'ultima volta, ha aperto il congresso a Rimini, come si chiama? La massima assise. Volete un po' distinguere dai congressi che fanno, che fanno gli altri. La massima assise del GOI. Lei disse: questa è una società di corrotti, faccendieri, millantatori, imbroglioni, ladruncoli e furbetti. Beh, insomma, è andato giù pesante. Adesso questo esattamente dico tante, potrei anche questo il contesto, eccetera. Ma io volevo arrivare a un punto che mi sembra abbastanza contraddittorio. E qual è? Facciamo l'esempio della questione dell'assessore di Scarlino. Ecco, ma alla fine sono stati espulsi o no questi assessori? Due assessori contestati? Sono stati espulsi, sono stati praticamente indotti, uno alle dimissioni e l'altro a dimettersi dalla masseria. Cioè, uno si è dimesso da voi e l'altro si è dimesso. Uno si è dimesso da voi e l'altro è rimasto nella massoneria. Nella massoneria si è dimesso dall'assessorato. L'assessore di Ancona, per essere chiari. Sì. Allora? La storia va raccontata, perché l'assessore di Ancona cosa fa? È a un funerale di uno zio, sì? Lo zio era massone, gli viene chiesto se anche lui è massone, e lui dice: sono massone, è la storia della mia famiglia. Sì. Allora vuoi la trasparenza, perché dopo cosa succede? Non vai a discutere se l'assessore è stato un bravo assessore, non l'è stato. E che fine ha fatto questo assessore? Si è dovuto dimettere? Si è dovuto dimettere? Lui si è dimesso, sì. Si è dimesso. Però posto il problema, adesso si discuterà sulla compatibilità. E va bene. E l'altro invece? L'altro invece cosa ha fatto? Si è trovato di fronte a un dilemma: continuare a fare l'assessore o dimettersi. E che ha fatto? Si è dimesso dalla massoneria. Si è dimesso l'assessore. E perché? Allora io vorrei capire, ma quale questione morale è questa? Vorrei chiedere a Fioroni. Il Partito Democratico. A un certo punto era un uomo che, in virtù di quello che era la sua Weltanschauung, il suo modo di essere, la sua concezione filosofica. Adesso Weltanschauung, spieghiamola sta cosa. A un certo punto cosa fa? Con le dimissioni. Allora le dimissioni sono una violenza. No, ma la democrazia, questo è inaccettabile. Senta, Raffi, lei su questa ragione, però le faccio un'altra domanda che non ha niente a che fare con questa vicenda. Lei, come capo della massoneria, quanto guadagna? Ma questo io aspetto, il suo appannaggio, io non sapevo che non credo che siano 120.000 euro. 129.000 euro. Ma lordi, Lordi, 129.000 euro lordi. Pare però che ci sia anche una carta di credito oro in dotazione, vero o no? Ma scusi un attimo, adesso la faccio ridere. Se io, anziché anticipare le somme che mi devono essere rimborsate, sono le spese materiali. No, ma è una domanda, amico, dico che è sbagliato, sono affari vostri quelli. No, ma io lo spiego subito, tanto sono cose risibili. Cosa posso fare? Posso usare la mia carta di credito, posso usare il contante e poi con i giustificativi farmi rimborsare queste spese. Poi il capo della massoneria, che è lei, l'automobile con l'autista. A questo lo devo ancora trovare. Non è vero? Non è, è un segreto della massoneria, perché io non ho trovato né l'autista né la macchina. Non ha né l'autista, a meno che non abbiano assunto un autista il quale abbia rubato la macchina, no? Scusi un attimo. Lei è un romagnolo, di quelli. Ma no, ma io penso veraci. Che la, per un uomo. Senta, ma l'appartamento all'interno di Villa Medici del Vascello, lei ce l'ha? Abita lì quando sta a Roma o no? Quando sono a Roma, ma non è tutta la villa. No, ci sono gli uffici. Lei venga a trovarmi, vi faccio vedere, ridiamo insieme. Volentieri. Ha capito? A due passi dal fontanone del Gianicolo. Io leggo qua un articolo di Panorama molto informato su questo. Ma vedete, quando non si fa più giornalismo. Vabbè, adesso non esageriamo, su. No, se io attingo le notizie da siti anonimi. Aperti in Malesia, dove poi non ti becchi la denuncia, e poi a un certo punto questi dati vengono raccolti, divulgati e riproposti, che io ho detto che era una ribollita, perché queste argomentazioni, diciamo, era una ribollita, vabbè, divertenti, se una voglia di ridere, se voglia di ridere, erano argomenti durante la campagna elettorale. Vabbè, adesso lasciamo perdere queste cose. Le chiedo un'ultima cosa, me lo dice, chiedo un incontro a Bersani per risolvere una volta per tutte questa vicenda. Ma io non ho problemi, chiedo un incontro a Bersani e poi semplicemente io direi questo. Caro onorevole Bersani, Bachelet è a suo tempo il... caro Bersani, basta con la persecuzione dei massoni all'interno del Partito Democratico. C'era una proposta seria e democratica. 15 secondi. Che era quella di Bachelet, che sicuramente non è un massone, un laico, eccetera. E di Zanone. Chiedete, quando uno si iscrive, l'appartenenza a tutte le associazioni. Benissimo. Va bene. Non c'è discriminazione. Va bene, grazie. Giornale Radio. D'accordo, arrivederci. Siamo qui alle 19:16, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Andiamo a sentire il TG3. Euro ai minimi, borse in rosso, voci di problemi per bilancio ungherese, balzo del PIL italiano, Tremonti annuncia misure per libertà d'impresa. Alfano contro i magistrati, il vostro sciopero è politico, fate sacrifici come tutti, l'ANM replica dal governo tagli punitivi. Ultima correzione al testo intercettazioni, il governo stralcia la norma sugli 007, per D'Alema una scelta saggia. La visita di Benedetto XVI a Cipro, l'omicidio di Monsignor Padovese, ha detto il Papa, non metta in discussione il dialogo con l'Islam. Oggi compie 100 giorni l'occupazione dell'Asinara da parte dei cassa integrati della Vinils, non molleremo, promettono. La manovra colpisce anche la scuola, gli insegnanti si mobilitano a rischio gli scrutini occupati alcuni uffici scolastici regionali. Nasce a Roma il primo hotel costruito con i rifiuti raccolti sulle spiagge, un'opera d'arte in difesa delle coste di tutto il mondo. Bene, Sky TG24. Il Papa a Cipro, il dialogo con l'Islam non si interrompa malgrado l'omicidio padovese. L'America senza lavoro trascina giù le borse, mercate ai minimi dal 2006. L'Italia cresce più della media europea, ma l'euro cede sul dollaro per il rischio Ungheria. Pensioni, Marcegaglia condivide l'ultimatum europeo, Sacconi tratteremo sulla gradualità. Alfano attacca i magistrati, il vostro è uno sciopero politico, replica, i tagli ci puniscono. L'ecomafia non sente la crisi, 20 miliardi di euro da rifiuti, racket e abusivismo. Ahmadinejad minaccia di distruggere Israele, la nave dei pacifisti ancora non sbarca a Gaza. Marea nera, sembra funzioni, il tappo sulla falla, Obama per la terza volta arriva in Louisiana. Un ulivista a Tokyo, Naoto Kan sostituisce a Toyama la guida del governo. Le stelle spezzate, Pirlo infortunato, Sudafrica a rischio, niente mondiale per Drogba e Ferdinand. Come te non c'è nessuno. Spettacolare intervento del leghista Gianluca Buonanno ieri sera alla Zanzara. Buonanno è un leghista ubiquo, ha 4 incarichi: sindaco, vice sindaco, consigliere regionale, deputato. Faccio il sindaco a Varallo, l'ultima volta ho votato con l'81% e non prendo un soldo. Faccio il vice sindaco a Borgosesia, sempre in provincia di Vercelli, in Valsesia, non prendo un soldo. Sono consigliere regionale ancora per poco, ma non prendo assolutamente un soldo, come oltre a fare il deputato. Non c'è nessuno. Ho 4 incarichi, però non me la tiro. Io mi rendo conto che rispetto a tantissime persone sono un privilegiato, ma proprio per quello cerco di fare il possibile e di non tirarmela, che è già una bella cosa. Come te non c'è nessuno. Tanto che ho fatto la campagna elettorale con un manifesto seduto sul cesso. Quando ho iniziato a fare la campagna del mio numero di telefono, che tutti mi potessero chiamare, perché solitamente ognuno cambia il numero di telefono dopo un po', no? Perché prima si fanno votare e poi cercano di non farsi trovare. E la mia campagna era seduto su un water con scritto 24 ore su 24 sempre presente. Beh. Ed è uno di quelli, dice, di avere il telefonino sempre acceso anche durante di notte e di averlo messo sui manifesti, il numero di cellulare di Buonanno. Chiamatelo! Il mio numero di cellulare è sui muri della città di Varallo, sì. Il mio numero di cellulare è su internet, il mio numero di cellulare era su Repubblica di ieri. E tra l'altro un giorno sono andato a Canale 5 da Barbara D'Urso. Pure. E lei, parlando di questa cosa dei cartelli, mi fa: ma è vero che è il numero? Sì, ho dato il numero, in 2 ore mi sono arrivati più di 7000 sms, mi ho fuso quasi il telefono. Non c'è nessuno. Dopo lo diamo, il numero di Buonanno. Dopo lo diamo. 19:21, Luca Telese, dove ti trovi? Prima eri in aereo. A Porto Torres. Cosa fai in Sardegna? Sempre a fare pubblicità per il fatto con l'isola dei cassi integrati. Ma non ti sfugge nulla. Non mi sfugge niente. Hai sentito, Buonanno? 4 incarichi, numero di cellulare distribuito ai cittadini, affisso sui manifesti. Così si fa. Come diamo così si fa? Diamo anche il tuo. No, ma sei matto? Il tuo è 335. No, non è 335, il tuo è 34. No, basta, anche il mio è 34, poi basta, Va bene, cosa fai in Sardegna? Cosa fai in Sardegna? No, presentavano il libro che nasce come sai, questa storia che mi sta molto a cuore, tra tanti che protestano in modo violento, monotono, rituale, e questi si sono inventati, gli operai della Vinyls, questa idea dell'isola dei cassi integrati. oggi è 100 giorni che si sono autoreclusi sull'isola e quindi festeggiano presentando il libro di Tino Tellini, uno di loro che ha scritto un diario molto divertente. Potrebbero farci un film, come dire, una commedia all'italiana. Però invece è una bella testimonianza. Allora Luca, ti leggo questa cosa a proposito di Isola dei Cassintegrati e di persone che certamente non hanno le fortune di Briatore, sai che non sono molto demagogico io su queste cose. È un'interrogazione parlamentare di Pietro Laffranco, un deputato del PDL, a Giulio Tremonti, ministro dell'economia. L'interrogazione parlamentare è questa: il sequestro dello yacht Force Blue, siamo sempre alla questione di Briatore, ad uso della famiglia Briatore da parte della Guardia di Finanza, è entrato nelle cronache sia per la notorietà del noleggiatore sia per le modalità, con un dispiego smisurato di uomini e mezzi, con tanto di riprese TV messe a disposizione delle reti televisive, ha provocato un inutile danno all'immagine dell'Italia e in particolare alla sua... No, non me lo dire! Laffranco, Laffranco, dove sei? Rispondi al telefono! Ma sai che abbiamo fatto una micro inchiesta dell'ottimo Ferruccio Sanza quest'anno? Solo quest'anno sono stati ordinati nei cantieri italiani 523 mega yacht di questi che costano 250.000 euro a settimana. È una notizia positiva questa qua. Sono tutti, guarda caso, poveri immatricolati con bandiera extraterritoriale e ognuna di queste immatricolazioni consente un risparmiuccio di 2 milioni di euro. Ma capisci che bisogna... Diventa forcaiolo pure tu. No, dai, ma diventa forcaiolo! Ma qual è il problema di queste... Qual è? Perché bisogna sequestrarli? Ma perché devono farsi lo yacht e truffare 2 milioni di euro? Ma prendiamoli da Ma non è che facciano tutte truffe questi qua? Non è che fanno tutti delle truffe, si può immatricolare, non so, alle Cayman, è legale immatricolare lì? Una legge immediata per togliere la possibilità di immatricolare degli scafi italiani alle Cayman, va bene? È una proposta. Così poi non li... Non può guaire, così poi il povero Force Blue, io posso fare questa proposta. Falla, ha provocato un inutile danno all'immagine dell'Italia, in particolare alla sua capacità di attrazione per turisti di elite, Laffranco, anch'io mi indigno per Laffranco, voglio indignarmi anch'io per Laffranco. Come stai? Con chi stai parlando, Telese? Con nessuno, sto aspettando che mi evocavi Laffranco per... Lo so, ma... No, ma non ce l'ho. Abbiamo provato prima, ma sai, quando si... Uno di un'interrogazione parlamentare dovrebbe rispondere subito alla radio. Vieni qui a parlare, Laffranco, dove sei? Esponiti, spiegati. Non vuole rispondere. Intanto grazie da Siena, grazie, buonasera. Grazie, dove è andata? Buonasera. Che aveva fatto? Si era assentata un attimo? Sì, giravo il risotto. Come risotto? Il risotto a quest'ora? Sì, comincia a cucinarlo. Mi dica. Dopo l'intervento di Raffi è un po' difficile intervenire, non crede? Perché? Perché, non lo so. Cioè, ma lei è massone? Lei è massone? Sì. È iscritta al Partito Democratico? Anni. È iscritta al Partito Democratico? No, assolutamente no, ma conosco gente che è iscritta, che fa e si occupa di politica, eccetera. E come mai il Partito Democratico ha preso questa, si è ingarbugliato in questa discussione? Perché secondo me è la loro storia questa, e non so se lei ha seguito Castagnetti, che è un ex democristiano e... Ora è il garante del codice etico. Sì, lo conosco. Che ha detto Castagnetti? C'è tutto questo attacco alla massoneria che però, se lei analizza la storia, è dal 14 che la massoneria fu espulsa dal Partito Socialista e poi via via da Mussolini e poi via via Stalin, Lenin, eccetera, eccetera. E siccome i nostri ex PC del Partito Democratico sono più realisti del re, non hanno ancora capito che non è questo. Chiamarsi Partito Democratico vuol dire qualcosa, significa, questo non è democratico. E dunque bisogna accogliere anche la massoneria. Telese, beccati questo dalla signora Grazia, non c'è più Telese, se n'è andato. Giorgio da Biella, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, come sta? Dica, bene. Bene, ascolti, io tre cose le voglio chiedere. Prima, però lei mi deve rispondere, non deve sfuggire alla domanda come di solito lei fa, io la seguo da molto tempo. La prima domanda è questa, secondo lei, sì. Poi vengo al problema che ho preannunciato la telefonista. E il primo problema è questo, secondo lei, oggi come oggi, vede un'alternativa a Berlusconi, sì o no? Ma non è una domanda senza senso, Giorgio, che significa? Io chiedo un suo parere, un suo autorevole parere. Ma significa un'alternativa a Berlusconi oggi? No, non la vedo comunque, non la vedo. Bravo. Ecco, poi? Poi, per quanto riguarda lo sciopero dei magistrati, a lei sembra normale che loro debbano così fare tutto questo casino o comunque ribellarsi per una cosa che tutti noi dobbiamo fare? Secondo me è sbagliato. No, secondo me è sbagliato lo sciopero dei magistrati, già l'ho detto più volte. Perfetto, siamo d'accordo su due cose. La terza cosa è una preghiera. Sì, però se siamo troppo d'accordo non vale. Vabbè, ma niente, comunque io sono contento. Ascolti, l'ultima cosa, poi la lascio, è una preghiera che le rivolgo. Lasci perdere sto Teresi, ho chiesto sto Teresi che ogni tanto lei... Ma se ride sempre! Ma non è Teresi, Telese. Ma io non lo conosco, non mi interessa, ma è un burlone, parla, ride, fa le battutine, ma chi è? Ma chi lo conosce quello? Lasci perdere. La radio è bella perché è fatta di gente seria come lei. Giorgio, però resti lì, adesso le passo Telese così litigate un po' e vi chiarite. Perché guardi che Telese è il numero uno. Ma io lo guardo. È un numero uno assoluto, Luca. Ma non lasci perdere, per favore. Sarà pure bravo, però comunque è di un'antipatia. Perché lei la pensa diversamente da lui, che c'entra? Ma no, ma ride sempre. Ride, meglio ridere che piangere, no? Vabbè, dai, la ringrazio. Resti lì, che la faccio parlare con Telese, borsa. Possiamo tagliare la testa a Tremonti? Oppure, se non la testa, almeno le palle. Insomma, io... Addirittura. Sì, siamo buttato lì. Ma per cosa? Per la manovra? Ma scusa, ma siamo matti, noi siamo l'Italia. Tagliamo l'arte e la cultura, ma bisogna mandargli un dottore a quel signore lì. Amedeo da Roma, buonasera. Sì. Buonasera dottor Cruciani, grazie per lo spazio. Io volevo, il mio intervento riguarda i tagli previsti nel decreto, in particolare quelli per gli enti di ricerca. Io lavoro in un ente di ricerca che purtroppo verrà soppresso da questa manovra e oltretutto anche un precario. Quindi, che ente di ricerca è, scusi Amedeo? Parliamo dell'ISAE, l'Istituto di Analisi Economica. Sì. Attraverso questo taglio io perderò il lavoro, diciamo, alla scadenza del mio contratto. Sì. Diciamo che il mio intervento non è solo rivolto a far capire, diciamo, un pochino ai radioascoltatori cosa comporta il taglio di questi enti. Sì. In primis, ci sono una serie di precari che andranno a casa. Tante persone che perderanno il lavoro, forse su questa cosa l'eco mediatico è stato abbastanza basso, cioè si è discusso su una serie di tematiche importanti, sull'indipendenza della ricerca, e il mio intervento è anche su questo, perché nel momento in cui gli enti di ricerca vengono chiusi e le competenze vengono accorpate all'interno dei ministeri, la ricerca perde una sua qualità importante, la ricerca pubblica perde l'autonomia. Perde l'autonomia e l'indipendenza. Io so solo, però mi scusi Amedeo, poi si può discutere naturalmente dei tagli, dove vengono fatti, se questi porteranno a soppressione di istituti. Io ci credo poco al fatto che in Italia poi alla fine alcuni enti verranno soppressi. Però al di là delle situazioni singole, e ripeto, mi dispiace se lei perderà il posto di lavoro, ogni volta è la stessa solfa. Riguarda tutti i governi, non solo i governi di centrodestra. Quando si prova, direi, a tagliare qualcosa, c'è una sollevazione. Anche da parte, ho letto uno spettacolare intervento sul Corriere della Sera del presidente dell'Istituto per il Bicentenario del Vespasiano. Adesso non è il suo caso, non è il caso dell'ISAE, sicuramente. Il quale però diceva, noi prendiamo 300.000 euro l'anno e facciamo tantissime cose, convegni. Insomma, si rende conto, Amedeo? Tutti vogliono resistere fino alla fine, tutti, nessuno vuole essere tagliato. Da qualche parte questi risparmi si devono fare oppure no? La mia proposta concreta è che, siccome parlo per il mio ente ma anche per altri enti, il risparmio alla fine, come proprio da documenti alla mano, riguarda un importo di 150.000 euro, 135.000 euro, cioè siamo in quest'ordine di cifre. Quindi, come peraltro evidenziato anche dal ministro ieri ad anno zero, diciamo, si potrebbe tagliare sul presidente, sul consiglio d'amministrazione, sull'affitto della villa dove risiede l'istituto. Benissimo, cioè questo facciamolo. E allora probabilmente si farà così, non taglieranno tutto l'istituto, si farà così. Qual è il problema? Il problema è che nel decreto dice l'ISAE, ma come altri, è soppresso l'istituto. Ma adesso, come lei sa, queste liste verranno riviste, ci si ragionerà meglio. Amedeo, insomma... Lo speriamo, io... Ma anche lei taglierebbe le palle a Tremonti come vuole fare Nina Wertmüller? No, guardi, io sono una persona molto, molto più moderata e molto più ragionevole, non amo giudizi, diciamo, di cosiddetti di bandiera, ma cerco di basarmi... Va bene, grazie. Giorgio da Biella voleva dire qualcosa a Luca Telese. Luca, dove sei? Qui mi sento. Giorgio, dica. Allora, io voglio dire Terese o come Cristina. Telese, non Teresi, Terese, Telese, Luca Telese. Parliamo di lui, che da quando lui interviene nella trasmissione, praticamente questa trasmissione, a mio modo di vedere, è rovinata. Ma non dica stupidaggini, Giorgio. Tant'è che lei ha chiamato apposta. Sì, ma qual è il curriculum di questo Telese? Ma che curriculum ha questo Telese? Ma che significa, Giorgio? Ma che favore, ma lasci perdere Cruciani, ma inviti gente più seria. Ma lei ride, scherza quando lo dice. Ma certo, anche sta ridendo. Faccia pace con Telese. Sì, dai, Telese, ti voglio bene. No, io sono disposto a presentare il diploma della maturità, ma poi se uno dice che bisogna tassare gli yacht, subito diventa un burlone o... Tu vuoi distruggere l'industria nautica italiana, questa è la verità, con questa proposta assurda di sequestrare tutti gli yacht che vengono immatricolati alle Cayman o altrove. Vuoi distruggere l'industria di diporto italiana, questa è la realtà. Che paghino le tasse, ma oggi l'ha detto bene Panza, c'è un bellissimo articolo sul libro. Vabbè, dice che bisogna fare la lotta all'evasione fiscale. Ma no, perché dice una cosa che qui in Italia sembra una bestemmia: chi evade è come se ti rubasse, chi evade e sta a fianco ai normali cittadini e gli ruba quello che loro pagano. Dunque tu inviti alla delazione, dovrebbero essere tutti delatori degli evasori fiscali. Delazione e manetta educativa, che secondo me è proprio un ciclo... Dal senso. Senti, ma oggi il titolo sulla prima pagina del Corriere della Sera mi ha fatto venire un'emozione incredibile, perché è quello che abbiamo detto ieri sera. Ti ricordi sui giudici, sui magistrati di L'Aquila, per quell'inchiesta che secondo me è folle? Se il giudice rincorre la piazza, verremo incontro alla gente. La frase esatta è: speriamo di arrivare a un risultato conforme a quello che la gente si aspetta. Cosa vuol dire? Giustizia. Ma era che giustizia, quello. Non era quello. Solo no? Dei dottor Sottili un po' cazziosi possono vederci qualcos'altro. Va bene, Luca, adesso ti lascio, però tra 10 minuti c'è Giorgia Meloni e ti richiamo. Non... Sono l'animo bolscevico della zanzara. Allora resta lì, tra 10 minuti ti richiamo. Roberto da Prato. Ciao, buonasera. Roberto da Prato, ringrazio per la seconda volta del mio accesso spazio. Volevo proporre questo argomento. Dica, però non stia così giù, si risollevi un attimo, di spirito. Dipendente pubblico. Lei è dipendente pubblico, che noia allora. Sono depresso. Scherzo. No, non è vero, non protesto contro i tagli. Però vorrei in qualche modo cercare di smentire un luogo comune. O comunque una e qual è il luogo comune? Non ho capito. Quello che i dipendenti pubblici sono tutti dei fannulloni? Perché io... No, i privilegi. Io sono al massimo della carriera funzionaria. Quanto guadagna? Appunto, 1600 euro al mese, dopo 31 anni di anzianità, con responsabilità su 30 persone, circa 10 milioni l'anno di euro sotto il mio diretto controllo e responsabilità, aiuto a rimpinguare le casse e la finanza statale, 1600 euro. E quindi mi sembra veramente demagogico, populista... indicare i pubblici dipendenti come quelli che godono di privilegi, sa cosa. Io mi sento un privilegiato, ma guardo tutti quelli che stanno, i miei collaboratori, i milioni di dipendenti che stanno con stipendi intorno a 1100, 1200 euro. Io le ripeto, sono al massimo della carriera, per cui i miei 1600, 1650 euro li porto a casa, ma se questi sono privilegi indicati alla nazione, ai pubblici dipendenti, dai vari Berlusconi e company, credo che sia fuori. No, le volevo dire, io intervengo per la seconda volta, la prima volta intervengo prima delle elezioni regionali. Sì, però Roberto, al di là di questa protesta sul fatto che non è vero che i dipendenti pubblici sono privilegiati, eccetera, eccetera, le faccio presente che gli stipendi negli ultimi anni, gli stipendi dei dipendenti pubblici sono aumentati molto di più rispetto a quelli dei dipendenti privati. Questo è un fatto, Roberto? La fame, perché se un dipendente medio pubblico guadagna 1200 euro, evidentemente prima facevano la fame, forse ora riescono a sopravvivere. Ma io non sto dicendo che in Italia i dipendenti pubblici guadagnano di più rispetto ad altri paesi, sto dicendo che però gli stipendi negli ultimi anni sono aumentati di più rispetto a quelli del privato. Punto. Può anche dire che 10 anni fa facevano la fame. Ma adesso la fame, non esageriamo, Roberto. Il secondo argomento qual è? No, il secondo argomento vorrebbe essere questo, di pari passo vorrei sapere, i nostri milionari in euro, ma miliardari in lire, vorrei sapere quanto sono stati toccati dalla manovra, cioè persone private che guadagnano milioni di euro l'anno, vorrei sapere quanto pagano a seguito di questa manovra. Credo sì, ma non è che in una manovra, scusi, questa cosa, questo qua è un argomento capzioso, l'ho sentito ripetere più volte, l'ho anche letto su qualche giornale, non è che se non pagano i ricchi, a parte che secondo me, diciamo, davvero non paga nessuno, ci sono un po' di risparmi sugli sprechi, ci dovrebbero essere, poi è da vedere, eccetera. Non è che se non pagano i ricchi non è una manovra giusta, non può essere questo il ragionamento, Roberto? Una manovra giusta, perché guardi, tra l'altro io ho da privilegiato a livello privato, ho bisogno dei tagli perché devo mantenermi il mio tenore di vita grazie ai capitali che ho accumulato negli anni e quindi ho paura di perderli per un default tipo Argentina o similare, ha capito? Luciani. No, le volevo soltanto fare un accenno circa il mio intervento 2 mesi fa, auspicai, lei forse se lo ricorda prima. No, non mi ricordo, me lo ripeta. E auspicavo una sortita di Fini. Lei mi rispose. Su che cosa? Su che cosa? In contrapposizione alla linea berlusconiana. Lei mi rispose: non hai voti. Vede che in questo caso, pur non avendo i voti, Fini ha posto i problemi, sono i problemi che riguardano davvero il centro-destra complessivamente. Va bene, Roberto, grazie. 1943 800 24 0024. Dove andiamo? A Biella, da Luca, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Volevo fare due precisazioni. La prima è che, pur essendo di Biella, Luca Telese mi è molto simpatico. E la seconda è che l'altro giorno ho avuto modo di, era semplicemente una postilla, un'aggiunta al personaggio Bonanno, io sono di Biella, ho avuto modo di passare da Varallo e sono veramente rimasto esterrefatto da quello che ho visto. Sono passato nel corso principale di Varallo e ho visto delle sagome finte di vigili. È così, è una storia arcinota questa, ce l'ha ripetuta anche Bonanno. Cioè, però, lui ha messo dei finti vigili all'angolo delle strade, in certi posti, adesso lo sentiamo, è Bonanno. Ci sono e sono un grande successo perché abbiamo diminuito le multe e gli incidenti del 30%. Il mio motto è: meglio un vigile finto che una multa vera. Ha capito Luca? Meglio un vigile finto che una multa vera. La cosa che più mi ha impressionato è che il viso di uno di questi aveva il viso dello stesso sindaco, ma uno di questi visi aveva il viso del ministro degli interni, di Maroni. Ma è così, ce l'ha detto anche a noi, ha fatto dei vigili con la faccia di Maroni. Incredibile. Ma l'altra cosa poi... Vabbè, insomma, secondo lei tutto questo è buffonesco oppure è serio? Sì, cioè, davvero secondo lei è riuscito a diminuire il numero di incidenti, di multe, perché le persone si avvicinano, vedono queste sagome di vigili finte e magari rallentano, no? Ma sì, può anche essere, però è secondo me è emblematico del populismo che ci sta attorno, soprattutto il fatto poi di... Vabbè, non è che se uno fa un vigile finto è populista, scusi, No, è vero. Però voglio dire, ad esempio, il divieto del burka e dei burchini a Varallo, che nessuno ha mai visto, conosco della gente di Varallo, nessuno ha mai visto un burka a Varallo. Eppure c'è un'ordinanza che vieta il burchini addirittura, come se tutti andassero a fare il bagno sul Sesia con i burchini. Beh, questo mi sembra un po', come dire, un eccesso, ecco. Un eccesso per incutere del timore nei confronti del diverso, che trovo di per sé una cosa non propriamente moralmente corretta, ecco. Ho capito. Eticamente corretta. Grazie. Domenico, Reggio Calabria, buonasera. Sì, buonasera. Pronto? Dica, Domenico, dica. Sì, allora in pratica io mi rifaccio solo a una sua ultima affermazione che ho già sentito da qualche sera sia da Tremonti che da altri, che gli stipendi dei dipendenti pubblici sono aumentati molto più rispetto a quello dei dipendenti privati. E allora io le posso garantire che non è così, tanto per cominciare perché c'è una media falsata sui dipendenti pubblici, in quanto viene raggruppato tutto, i dirigenti, i quadri eccetera eccetera, quindi è un'unica sommatoria e quindi la media viene falsata dagli stipendi più alti, quindi già su questo non sono assolutamente d'accordo con lei. Se poi andiamo a guardare la questione degli aumenti contrattuali dei dipendenti pubblici, maggiormente nella scuola ad esempio, l'ultimo aumento che è stato di 50 euro è stato subito tolto con l'aumento di addizionale regionale e comunale che è andata a sommarsi a 60 euro, Quindi, tra virgolette, un dipendente della scuola ha avuto 50 euro di aumento ultimo, sì, e di fatto gli è stato tolto poi, benché il Berlusca e compagni dicono che non mettono le mani nelle tasche degli italiani, dall'aumento dell'addizionale comunale e regionale. Quindi credo che ci sia un'informazione assolutamente non corretta, un po' in forma generale, forse perché non si conosce la realtà. Sì, però lei sta affrontando due aspetti, da una parte l'aumento che c'è stato e dall'altro alcune tasse che vengono messe. Quella miseria vi viene bloccata per 3 anni. Però allo stesso tempo viene applicato l'aumento di 370 euro ai dirigenti scolastici che sono nello stesso comparto. Sì, vabbè, Domenico, io però non posso parlare di dirigenti scolastici, l'aumento di 50 euro e quello e quell'altro. Lei è d'accordo con questo? In Italia ci sono troppi dipendenti pubblici, sì o no? Tornando al discorso in generale, io vorrei capire dove sta lo Stato e dove non sta lo Stato. Ma dov'è lo Stato? Che domanda è? Domenico, grazie. Luigi, provincia di Fermo, dov'è lo Stato? Quando io per 100 euro di multa non pagata mi vedo pignorare la casa. Ma adesso lei passa da un argomento all'altro, nessuno le pignora la casa per 100 euro di multa non pagata, Domenico. Per dire, è onorevole di che cosa? Che si fregiano di essere onorevoli. Ma onorevole. Vabbè, Antonio da Catanzaro, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica. Senta, io volevo parlare un po' di Telese. Eccolo, è tornato, Telese. Ma chi sono? Che tutti vogliono parlare. Tutti vogliono parlare di Telese. Antonio, si fermi, Antonio, si fermi, sì. Si blocchi. Cosa vuole dire a Telese? Niente, voglio dire che ha fatto una metamorfosi veramente sconcertante. Era un cronista del giornale molto libero, molto garantista, sinceramente affascinante e accattivante. Invece mo me lo ritrovo al Fatto Quotidiano con la guida di Padellaro, un direttore che sputa astio, non rancore ad ogni piè sospinto. Da garantista a forcaiolo, Telese, ha ragione Antonio. Ma io sono sempre stato così, cioè non ho mai cambiato di un punto una mia opinione, infatti non aderisco a tutte le opinioni del Fatto, ho le mie opinioni. Se lei si sente le registrazioni della Zanzara di 1 e di 2 anni fa troverà queste stesse opinioni. Ma cosa c'è di scandaloso? Cioè, vabbè, adesso non te la prendere con Antonio, No, ma Antonio, ma qual è? Mi dica una cosa che lei non condivide, cioè dico oggi tassiamo questi panfili di oltre 24 metri e viene considerata una cosa forcaiola, ma è ma minimo. No, ma siete veramente, secondo me siete complessati, guardate. Telese, sei complessato, sei complessato. Sì, voglio il panfilo pure io, è una frustrazione. Sogniamo sei frustrato perché non ti puoi fare lo yacht, però... Qualche piccolo cambiamento ce l'hai avuto anche tu, qualche cosa che prima tenevi un po' dentro adesso viene fuori. Non è vero che spesso sai a chi lo chiedo una persona che ti conosce perché vi conoscete, perché tu frequenti il Parlamento da un sacco di tempo e hai un rapporto particolare perché è una persona di cui ti sei occupato a livello diciamo di giornalismo. Il ministro Giorgia Meloni, buonasera. Buonasera. Allora, la prima domanda, che non è proprio una domanda che si fa a un ministro, è questa: ma Telese è cambiato è o non è cambiato? No, io vorrei la domanda: Telese è completato? No, non penso che si possa dire che è cambiato. Nel senso, Luca è una persona che ha, insomma, che ha sempre, che tende a esprimere sempre, insomma, le proprie idee, che lo fa, secondo me, come spesso i giornalisti devono farlo. Poi mi capita spesso di non condividere le sue tesi, le sue teorie, particolarmente in quest'ultimo periodo, però non potrei dire che Luca scrive sulla base, diciamo, di dove scrive. È una persona che è abituata a dire quello che pensa, penso che sia anche giusto quando si fa il giornalista fare questo. Vi conoscete troppo bene, lei non si può, secondo me... No, voglio dire... Io riconosco l'onestà intellettuale anche delle persone che scrivono, no, ma certo. Diciamo, diversamente da quello che scriverei io. No, certo, ma secondo lei c'è stato qualche cambiamento da quando è passato dal giornale al Fatto o no? No, guardi, le sue cravatte sono sempre uguali, purtroppo, quindi cose significative. È ingrassato un po', è ingrassato. È ingrassato però, devo dire. È ingrassato un po'. No, non lo so, devo dire anche che leggo meno adesso di Luca, perché chiaramente leggo più il giornale del Fatto Quotidiano. Perché si devono conoscere più i nemici degli amici. Ma non che non lo legga perché non lo voglio leggere, insomma, queste cose che si dicono. Mi capita però chiaramente di leggerlo di meno, nel senso che sono quotidiani che si leggono magari quando si ha più tempo, no? Se no uno legge, insomma, Giuseppe, i principali e non ce la fa leggere tutto. Luca, dimmi, che succede? No, ma io voglio dire, spiegate anche al nostro ascoltatore che non è che ci sono i soldatini di qua e di là. Casomai ho fondato un giornale, ho contribuito a fondare un giornale per sostenere meglio le mie idee. E ti dirò di più, la Meloni è alla mia sinistra. In che lei senso? È un splendido esempio di destra sociale che sulla proposta di tassare il Panfilo da 24 metri è più d'accordo di uno del PD. Quindi non sono così come dice lui le cose, il bene, il male, la destra e la sinistra. Siamo liberi, abbiamo idee diverse. Senta, ministro, prima discutevamo, lo spunto era partito dal fatto che un senatore, no, un deputato del PDL ha presentato un'interrogazione sostenendo che il sequestro dello yacht di Briatore, poi naturalmente magari sarà sbagliato il sequestro, questo lo deciderà la magistratura, ci sono i ricorsi, e però ha portato un danno all'Italia e soprattutto un danno alla capacità dell'Italia di attrarre turisti di elite. Lei un'interrogazione del genere l'avrebbe proposta? Ma no, guardi, probabilmente non l'avrei proposta, anche se io ho seguito molto poco questa vicenda dell'appunto del sequestro dello yacht di Flavio Briatore. L'ho letta particolarmente quando ho letto di questa interrogazione, perché la notizia l'avevo seguita poco. Probabilmente no, insomma, ma perché io amo occuparmi di altre questioni, insomma, ciascuno si occupa delle cose. Però danno per l'Italia mi sembra un po' esagerato, sostenere che è stato un danno per l'Italia. Però per entrare in questo merito purtroppo dovrei conoscere effettivamente la vicenda meglio di quanto io la conosca, per cui non voglio neanche dire delle cose che chiaramente, insomma, detto così, sì, cioè direi che sono più dannose altre cose per l'Italia, però effettivamente io non la conosco bene, quindi non voglio neanche giudicare qualcosa di cui non ho sufficiente contezza. Senta, invece un'altra cosa magari le preme di più ed è più informata su questo, ma insomma sono secondo lei apprezzabili le giustificazioni, credibili le giustificazioni del ministro Maroni che ha detto di non andare alla festa del 2 giugno da 3 anni, poi è andato a Varese dove hanno cantato non l'inno d'Italia ma una canzone di Gino Paoli, insomma ci voleva la presenza del ministro degli interni, sì o no? Ma guardi, io credo che la giustificazione di Maroni sia credibile nella misura in cui è vero che lui non c'è mai venuto alla festa del 2 giugno, che non c'è venuto neanche gli altri anni e che non era l'unica assenza e che l'assenza dei ministri Renzi non era l'unica, però francamente io penso che questo tema del rapporto con la Repubblica, con la Nazione, con l'Italia, con la Patria, forse debba essere meglio, diciamo così, affrontato e meglio sviscerato dalla Lega, perché ancora oggi, al di là insomma del ministro Maroni, che è sicuramente persona insomma estremamente capace, estremamente credibile, sta facendo un grande lavoro, però insomma leggo ancora delle dichiarazioni che francamente mi avviliscono un po' da parte di alcuni esponenti della Lega, abbiamo letto anche nei giorni passati, ma per esempio Salvini che dice che bisogna abolire la festa del 2 giugno perché costa, insomma, voglio dire, di cose che costano in Italia e che si possono abolire senza abolire l'identità italiana ce ne sono a milioni se si vogliono affrontare, altrimenti si rischia semplicemente di non avere rispetto, ecco, io penso che si debba il rispetto all'identità di una nazione, alla sua storia, soprattutto quando si va a celebrare il 150° anniversario della sua unità, penso che bisogna fare i conti con l'elemento per cui le identità non si escludono mai, le identità si possono integrare, quindi rivendicare un'identità nazionale non significa negare le identità particolari o le identità territoriali, significa riconoscere che le identità territoriali e particolari arricchiscono l'identità complessiva. E dunque si può dire che in mancanza di questa consapevolezza noi non siamo in grado di trasmettere niente ai nostri figli, cioè se non capiamo che noi viviamo in una terra che è il frutto dei sacrifici che qualcuno ha fatto prima di noi, non gli insegneremo mai neanche perché loro devono fare i sacrifici per chi verrà dopo di loro, e questo è un tema di estrema serietà che secondo me va affrontato con la dovuta serietà, ecco, e appunto, che spesso ma non vedo affrontato con la necessaria serietà, e questo ho capito benissimo e sono d'accordissimo. Detto questo, si può concludere dicendo che Maroni dunque ha sbagliato, insomma, caro ministro Meloni, è il ministro degli interni, non è che sia il ministro, sa, ministro della semplificazione come Calderoli, che può venire o non venire, il ministro degli interni alla parata militare ci deve stare secondo me, o no? Ma guardi, secondo me sarebbe bello che ci stessero tutti i ministri, indipendentemente dal tipo di responsabilità che hanno, perché al di là, cioè, il problema non è tanto che alla parata del 2 giugno sfilano le forze militari e quindi anche i carabinieri, quindi anche sfila la polizia e quindi anche i riferimenti precisi del Ministero degli Interni, perché secondo lo stesso schema potremmo dire che non c'era neanche Tremonti che ha visto sfilare la Guardia di Finanza, insomma il punto non è questo, il punto è che quella è la festa Repubblica Italiana. Un ministro della Lega ci vuole. Secondo me i ministri ci dovrebbero stare, sarebbe bello che i ministri ci stessero tutti. Tutti. Allora Luca, dove sei? Vedi, questa è la destra in Italia, cioè, nel modo in cui se lo può dire con qualche cautela, la Meloni ti ha detto, Maroni ci doveva stare, fa bene a dirlo, e fa bene a dirlo anche così, perché non è che può aprire una guerra, Il problema vero è che io sono convinto che se l'opposizione avesse 5 o 6 persone come la Meloni, ogni tanto glielo dico, il governo sarebbe già caduto. Ah, addirittura. Il governo che ma dice che non c'è crisi. Ma il Partito Democratico si occupa di massoneria, ti rendi conto? Eh? Si occupa di massoneria il Partito Democratico, di massoneria, di massoneria. Viva la Meloni all'opposizione, prova a convincerla, no. Prova a convincerla, ciao! No, dove vai? Dove vai? Voglio sentirlo, che con tre mosse questa fa cadere. Senta, senta ministro, ma lei l'opposizione la sa fare. Lei se guidasse la RAI, se guidasse meglio della maggioranza. Se lei guidasse la RAI, le taglierebbe due serate di Saviano su quattro previste, non so quante ma sono. Certo che no. No, non rispondere tu però, ministro, le taglierebbe le serate. Ah, ma con me sta parlando? Sì, se lei guidasse la RAI, so che no, non è una cosa a cui aspira, so, a guidare la RAI, perché è un grattacapo. Però le serate di Fazio con Saviano le taglierebbe o no? Ma guardi, no, penso che non le taglierei, anche se io ho trovato in alcuni casi che Saviano, che era ed è uno straordinario esempio per tanti giovani, abbia... si sia un po' lasciato, diciamo così, trascinare da questioni rispetto alle quali io fossi stata nei suoi panni, con il tipo di percorso che avevo fatto, con il tipo di esempio, francamente non l'avrei fatto. Gli appelli su Repubblica, queste cose qui? Beh, in generale tutte le cose che ha fatto e delle volte sono sembrate un po' strumentali, francamente, rispetto a un personaggio che invece ha una forza straordinaria e che chiaramente può essere un esempio a 360 gradi, anche... diciamo così, il fatto di non magari di non avere la stessa attenzione a dialogare con tutti. Io per esempio l'ho invitato tante volte, questo lo dico da sì. Esponente di partito, no, l'ho invitato tante volte alla festa del nostro movimento giovanile, non c'è mai voluto venire e mi dispiace, magari non è mai potuto venire, però no, penso certo, che insomma certo. No, dovrebbe essere più trasversale, dovrebbe essere più trasversale secondo lei, se è troppo? Secondo me dovrebbe, no, il problema non è essere più trasversale, certo, secondo me gli esempi dovrebbero essere persone che hanno una forza, una forte capacità di rappresentare un esempio, dovrebbero il più possibile librarsi al di sopra di interessi. E cosa rimprovera Saviano in quest'ultimo periodo, in quest'ultimo anno, di essere stato troppo di parte contro Berlusconi, per esempio? No, ma guardi, non voglio scendere su questo terreno. Io le ho fatto per esempio un esempio di ampio respiro che potessimo mantenere anche un dialogo più ampio, no? Con mondi più ampi, con mondi diversi. Ho capito. E questo delle volte mi francamente pare sia mancato. Mi è dispiaciuto perché invece insomma ho una grande stima al personaggio. E comunque non taglierebbe le serate alla RAI. E siamo qui insieme al ministro Meloni in collegamento con noi, Luca Telese, che adesso richiamiamo, che è in Sardegna insieme ai personaggi dell'isola dei cassintegrati. Che vogliamo fare a questi vizi? E andiamo a sentire i titoli del TG5. Il prodotto interno lordo italiano cresce dello 0,5%, il dato migliore d'Europa, ma l'Ungheria annuncia rischi di bancarotta e le borse vanno a picco. Il Papa a Cipro, necessaria la convivenza con i musulmani, il dolore per la morte di Monsignor Padovese ucciso in Turchia. Stavo scappando, poi il fuoco sul viso e sui capelli. Sopravvissuta alla strage di Viareggio, lascia l'ospedale dopo 11 mesi di calvario. Un bambino di 9 anni cade dalla bici e finisce in un canale nel Mantovano, vane per ora le ricerche. A Roma, cerimonia per il 196esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri, gli ottimi risultati dell'ultimo anno, soprattutto nella lotta alla criminalità organizzata. In Italia ci sono 15.000 falsi medici e altrettanti falsi dentisti, truffatori che, anche se scoperti, spesso se la cavano con poco. Il mondiale sudafricano perde 3 stelle, Andrea Pirlo si è infortunato e rischia di non giocare, KO anche Drogba e Rio Ferdinand. Allora, ministro Meloni, mi dico una cosa, ma secondo lei l'anno prossimo la RAI senza Santoro, se non ci sarà Santoro, perché non è ancora sicuro, ci perde o no? Pronto? Mi sente? Sì, scusi, no, è andata via la comunicazione. Prego, non si preoccupi. Allora, volevo sapere, secondo lei, se l'anno prossimo alla RAI non ci sarà Santoro, sarà una perdita oppure no? Ma no, penso francamente di no. Non sarà una perdita? No, penso di no. Cioè la RAI ne può fare a meno di Santoro? Ma io penso che in generale si possa fare a meno di tutti. Di tutti, anche quello di, sicuro. Anche insomma. Di Giorgia Meloni, insomma. Su questo... Penso che chiaramente Santoro è un grande professionista e questo lo sappiamo. Ovviamente il suo programma è un programma che anche nella polemica fa molto parlare, fa molto audience e quindi su un piano diciamo economico, commerciale, sicuramente utile alla RAI. Però penso anche insomma che... ci siano tanti professionisti che possono costruire delle trasmissioni ugualmente importanti e che insomma valga anche la pena insomma misurare qualcun altro se necessario. E dunque secondo lei è incompatibile Santoro col servizio pubblico? No, non ho detto questo, non ho detto che è incompatibile con il servizio pubblico, francamente io lo trovo fazioso per il servizio pubblico, ma questo non vuol dire che sia incompatibile, voglio dire ci sono un sacco di cose che nel servizio pubblico anche insomma nella nostra accezione perfetta di servizio pubblico non funzionano. Sicuramente quello che non si può dire quando si guarda Santoro è che in Italia non ci sia libertà di espressione o libertà di stampa, ecco questo lo trovo un po' surreale francamente, che persone come Santoro che molto liberamente esprimono le proprie opinioni attraverso il servizio pubblico in maniera abbastanza diciamo così di parte poi possano anche dire che in Italia non c'è libertà di espressione, questo sì. E il TG1 di Minzolini le piace? Le pare un telegiornale obiettivo? Sì, le pare un telegiornale obiettivo. Telese, dove sei? Non ci sei più. È sparito, deve essere successo qualcosa. Ci ha abbandonato Luca Telese, no, ma credo che abbia salutato però. Che salutato. Sta con i cassi integrati lì. Il compenso lo devo fare io drammaticamente. No, vada pure, grazie. Grazie a voi. Di essere stata con noi. Arrivederci, buon lavoro. 27 minuti, Giuseppe, provincia di Chieti. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Lei mi si sta telesizzando. In che senso mi sto telesizzando? Questa sera tutta una discussione intorno a Telese. No, io dico, ma le fa perdere punti Telese. Guardi, le assicuro che me li fa guadagnare, se proprio la mettiamo su questo piano. No, nel senso che una persona come lei, cioè cosa c'ha da... Non lo so, Telese, cosa ci deve insegnare a noi? Deve insegnare niente, Giuseppe. Qui nessuno, in questa radio, nessuno deve insegnare qualcosa. In questa trasmissione non ci sono i conduttori che insegnano qualcosa. O dire... Cerchiamo di passare 2 ore e mezza insieme nella maniera più divertente possibile. Io mi auguro che insomma dia di meno spazio a Telese. Non lo so, oggi prendendo il caffè con un amico... E stamattina che sente Radio 24 pure lui dice forse che Cruciani siccome deve fare la trasmissione lì alla 7 gli serve una spalla, non so, una parola gli è servita. Ma lei proprio altro che dietrologia, qui siamo proprio alla fantapolitica, Giuseppe. Di che sta battuta? Ma voi quando la mattina prendete un caffè al bar, ma non avete altri argomenti di cui parlare? Parliamo pure di Cruciani. Vuol dire, per carità, io sono contento, non è che... No, vede, questa sera ho sbagliato numero. Cioè? Sa perché? Perché? Sono 2 o 3 giorni che sentivo forbice. Ma lei è impazzito, Giuseppe. Ho rifatto il numero di Radio 24. È impazzito, ma perché vuole sentire forbice? È impazzito lei? No, perché Telese, non bolscevico... Ma non è, ma che bolscevico, a parte bolscevico, beh, uguale. Telese appartiene alla categoria dei Santoro, Travaglio, Lerner. Si ricorda Massimo Fini quando tutti insieme appassionatamente. Si ricorda Massimo Fini che disse? Disse che Santoro era le braccia di Santoro erano braccia tolte all'agricoltura. E come no, l'ha detto qui da noi, poi l'ha scritto dopo sul Fatto. Sì, ma l'ho sentito. Allora? Io la stessa cosa la penso di Telese, perché lui col sorrisino di superiorità, ma cosa ci vuole insegnare? Lui è un bolscevico, anti-italiano. Giuseppe, però mi adesso... auguro che lei ritorni come era prima, no? Giuseppe, sì, d'accordo, però adesso non è che lei ci deve abbandonare perché noi abbiamo Telese qui praticamente ospite fisso, non mi faccia questi scherzetti, lei mi è migrato da forbici in questi 3 giorni, ma io... Sì. Ma no, ma questo mi sembra francamente esagerato. Eh no, perché non lo potevo, sentivo troppo Telese, le sue però teorie. Adesso siccome Telese è impegnato all'isola dei cassi integrati, sta con i cassi integrati lì in Sardegna a Porto Torres per fare le cose sue, sa, ognuno ha le sue fissazioni, è fissato con quest'isola dei cassi integrati, con queste persone che perdono il lavoro, per carità, si è appassionato di queste vicende, ognuno ha le sue, in questo momento non è in collegamento, però alle 8:30 siccome abbiamo un altro ospite... Io la richiamo, Giuseppe, perché vorrei che le cose lei gliele dicesse in faccia. Va bene. Eccoci qui, 20:13, mi scrive un ascoltatore che è un tassista, Mariano, dov'è? Eccolo qui. Anche nel mio taxi mi dicono di cambiare quando sentono Telese. Mariano, ci chiami, ci spieghi questa cosa, non me ne faccio una ragione. Un altro, Aldo da Milano: Cruciano e Teresa, vi invito a cena a casa mia, ci facciamo una bella chiacchierata, perché no? Intanto andiamo a Luigi, provincia di Fermo, buonasera. Luigi, cosa sta facendo? Sta mangiando, sta parlando, no, parlando no. Luigi! Danilo, da Perugia, buonasera. Buonasera. Buonasera, no, secondo me fate una bella accoppiata, eh? Lei è Telese invece, una bella accoppiata telefonica, radiofonica dico. Telefonica, anche telefonica. Radiofonica, anche telefonica. Anche telefonica, sì. Allora, io ho chiamato perché a me è successo pochi anni fa. Che è successo? Sono stato protagonista di una faccenda abbastanza singolare. Da membro di un partito politico, posso dire quale, no? Sì, certo. L'UDC, l'UDC. Ma qui possiamo dire tutto. Io voglio trasformare questa trasmissione in una sorta di reality in cui ognuno dice. Uno sputtanamento generale anche del sottoscritto, anche del sottoscritto, volendo. Si può... Ma sì, insomma, scopriamo tutto: le nostre vite private, i nostri numeri di telefono. In Umbria, no, i numeri di telefono, lasciamo vedere. In Umbria, a un certo punto, nel 2005. Ma scusi, ma se l'assessore, altro che assessore, se il sindaco, vice sindaco, consigliere regionale, deputato, può dare il suo numero di telefonino, lo dia anche lei, Danilo, lo dia anche lei. Dunque, un massone, un noto massone, fa domanda di iscrizione nell'UDC. Allora, nel consiglio provinciale dell'UDC di Terni. Lei era iscritto al consiglio provinciale dell'UDC di Terni? No, un membro del consiglio provinciale dell'UDC di Terni e del consiglio regionale dell'Umbria, dell'UDC. Sì, allora. Vabbè, insomma, chi fa ricorso? Adesso insomma, vi siete presi i Binetti? No. In Umbria. Il ricorso glielo, è inutile che ride. Io. Vi siete presi i Binetti in Umbria o no? Lo so, purtroppo. Guardi che lo dico alla mia amica Binetti che ci sta ascoltando, ci ascolta sempre la Binetti. Come purtroppo. Ha fatto un bel risultato in Umbria o no? Accidenti, sì. E allora, di che si lamenta? No, di niente, io sono uscito comunque dalla politica. È uscito dalla politica, comunque, insomma, un massone si è iscritto all'UDC, poi che è successo? Però, insomma, la faccenda, insomma, si è risolta in modo che, insomma, mi ha anche fatto ridere, perché io ho fatto ricorso anche a nome degli altri perché non fosse preso nell'UDC. Non solo il Partito Nazionale se lo è tenuto, nonostante che, insomma, l'essere massone contrastava con un articolo, mi pare il 14 dello Statuto, no? Ma perché anche l'UDC non vuole i massoni dentro il suo partito? Cioè, questo articolo 14. Vabbè, insomma, poi invece lui è rimasto. La massoneria invece che ha fatto? L'ha cacciato, non mi dica questo. È successo che lui, per difendersi dalle mie accuse, da quelle anche della Conferenza Episcopale Italiana, che intanto si è schierata con me, un bel giorno ci ha avuto questa bella idea di dire: io, come De Gasperi, sono un impenitente cattolico. A quel punto si è aperto un processo interno alla massoneria e 9 mesi dopo. Lui che diceva che non era iscritto alla massoneria, 9 mesi dopo la massoneria, con un atto che è stato reso pubblico, lo ha cacciato dalla massoneria. Perché si era dichiarato cattolico? Perché si era dichiarato un cattolico impenitente. Come Beh, Danilo, questo è strepitoso, la ringrazio. Intanto D'Alema è intervenuto sulla questione della massoneria, incredibile. A proposito del rischio di infiltrazioni di esponenti della massoneria del Partito Democratico, ha detto: ci sono delle regole, i partiti e gli organismi dirigenti hanno il dovere di farle rispettare. Insomma, fuori tutti i massoni. Voglio di nuovo parlare con Raffi, richiamatemi Raffi. E siamo qui, 800 24 00 24. Andiamo a Mario Grosseto, buonasera. Non c'è più, Mario da Verona. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Intanto mi permetto di salutare mia figlia che da mezz'ora attaccata alla radio in attesa di sentire cosa dice suo padre. Ecco. E saluti. Quindi, sua figlia, benissimo. Ciao Chiara. Ciao. Senta, Chiara. Io avevo già chiamato venerdì, non c'è stato tempo per intervenire, ma poi ho deciso di richiamare dopo aver visto la puntata di Ballarò, perché volevo commentare le dichiarazioni di Berlusconi che ha fatto lì in Francia. Dove dicevo, pensavo che se lui sostiene di non avere una maggioranza per poter decidere, insomma, credo che lasci capire cosa intenda lui per democrazia. Democrazia vuol dire unire tutte le anime di un governo. Che significa unire tutte le anime di un governo, Mario? Perché non ho capito cosa vuol dire. Tutte le sensibilità. Quindi, ma che significa unire tutte le anime di un governo, tutte le sensibilità? Non si capisce niente. Se mi fa finire, forse ci capiamo. Intendo dire che non può fare quello che vuole lui. Ma chi? Berlusconi. Non può fare quello che vuole lui. Beh, no, sì, in Italia, come sa, ci sono diversi contrappesi al ruolo del capo del governo. Insomma, come è noto, al contrario di quello che possono pensare delle persone. No, no, no, però mi permetta, dopo aver visto martedì la sceneggiata che ha fatto a Ballarò, sì, questo qua non accetta il confronto. Non accetta il confronto? No, non l'accetta, non è la prima volta, e purtroppo la democrazia, purtroppo per lui, il sale della democrazia è il confronto, quindi se lui non accetta il confronto evidentemente insomma vuole un'altra roba. E poi un'ultima considerazione, visto che siamo da una tana molto famosa, un covo leghista, come la definisco io. Cos'è la tana leghista? Verona. Ah, Verona, lei dice, sì. Sì, sì, sì, sì. Cioè, io ho sentito... La tana leghista, mi scusi, Verona ha avuto pure dei sindaci non di centrodestra, adesso perché è stato eletto, un sindaco della Lega con tantissimi voti, è diventato improvvisamente una tana della Lega. Insomma, questo mi sembra un po' esagerato anche questo. Sicuramente il personaggio che abbiamo come sindaco è un personaggio di primo spiccolo, cioè di spicco della... Vabbè, insomma, lei dice chiamo davvero una tana della Lega, allora? Sì, appunto, dopo aver sentito il parlamentare, anche sindaco, vice sindaco e consigliere regionale, mi sembra che chi sventoli la democrazia, l'uguaglianza, la correttezza, insomma, francamente farebbe bene a guardarsi in casa propria, perché insomma, io al di là del fatto che prenda o non prenda tutti quegli stipendi, mi sorge il dubbio se uno possa governare bene, amministrare bene, se ha tutti quegli incarichi. Credo proprio di no. Anche a noi viene il dubbio, devo dire la verità, Mario. La ringrazio di questo suo intervento. Francesco dalla provincia di Udine, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Io volevo intervenire riguardo il discorso della loggia della massoneria per il PD. Sì. Ti ho sentito prima. Per me è un paradosso, praticamente quelli che sono iscritti alla loggia, sia alla massoneria, non possono avere la tessera, però quelli che hanno reati, sono stati condannati, eccetera, eccetera, quelli invece sì. No, però mi perdoni, chi l'ha detto che all'interno del codice etico, comunque dei regolamenti del Partito Democratico, c'è anche che chi è stato condannato per diversi reati non può essere iscritto, non può avere ruoli istituzionali, non si può presentare alle elezioni, eccetera, eccetera. Dunque, insomma, se la vogliamo buttare sempre in bacca, Francesco, buttiamola pure, ma non è questo, non è così come dice lei. Francesco, non è così, lasci perdere. Io sono d'accordo sul fatto che è una follia escludere quelli iscritti alla massoneria, non si capisce per quale motivo. Però il suo argomento mi pare molto debole. Pazienza. Lo so, infatti, pazienza, lo dico, lei mi risponde, dunque lei può proseguire, dica. Ah no, ho finito, io non avevo altro da dire. Non ho capito, qual è il punto, mi scusi, qual è il punto? Il punto che è un paradosso, perché Bassolino o altri, adesso non, che hanno reati e sono stati condannati. No, veramente Bassolino non è stato condannato per nessun reato, Francesco, non è stato condannato. Avrà dei, non so se nemmeno se abbia dei rinvii a giudizio, è inquisito per qualche cosa, non è il punto. Allora è un paradosso che chi è inquisito o eventualmente ha dei reati possa essere iscritto al PD e chi è iscritto a una loggia massonica di cui il signore parlava prima, cioè ci sono nomi nei siti web, insomma che non fanno niente di male. Ho capito. Va bene, grazie Francesco. Luisa dall'Aquila. Pronto, buonasera. Buonasera. Senta, io volevo intervenire in merito a quel suo intervento che ha fatto poco fa sulla questione, sulla vicenda giudiziaria di L'Aquila. Io sono di L'Aquila. Sì. Ecco, e sono diciamo un attimino delusa da questa vicenda, almeno per la piega che sta prendendo, perché mi sembra più che altro una manovra pubblicitaria. E, nel senso che mi sembra appunto che sia quantomeno azzardato ritenere che, così come ha detto il procuratore, che la città andasse evacuata come se il terremoto fosse in realtà prevedibile. E beh, mi pare, Luisa, che è stato sempre detto il contrario. Luisa, anch'io la penso così, tant'è che quella frase pronunciata ieri dal procuratore capo di L'Aquila mi è sembrata francamente senza senso. Speriamo di arrivare a un risultato conforme a quello che la gente si aspetta. Cosa vuol dire quello che la gente si aspetta? Che un giudice fa, un pubblico ministero, un capo di una procura avvia un'indagine per andare incontro a quello che la gente si aspetta? Va bene, Marco, Reggio Emilia. Buonasera, dottor Cruciani. Volevo esprimere così la mia opinione, o meglio, la mia delusione rispetto i politici italiani. Voglio dire, io sono un liberale, vorrei che ci fossero veramente riforme liberali, dare spinta al coraggio, alla creatività, alla imprenditorialità e al genio italiano. Invece da destra e da sinistra mi rendo conto che coltivano solamente la protezione di piccole e grandi mafie. Vuol dire, Berlusconi non è un liberale. Però Marco, mi vado un po' più sul concreto, perché se lei spara, concreto, se lei spara concreto, sulla... Vorrei che fosse dato spazio alla libera iniziativa, alla possibilità di intraprendere le industrie, le attività dovrebbero essere facilitate in pochi giorni. Ho capito, potrebbe... questo in linea di principio va bene. Nel concreto, mi faccio un esempio. Nel concreto, guardi solamente gli appalti che sono stati dati per la protezione civile. Quelle sono mafie. Ma quale liberalità c'è quando si decide a priori quale meritocrazia? Quale vantaggio? Un attimo solo, mi resti lì, non se ne vada. Voglio un commento flash da Gustavo Raffi, del Grande Oriente d'Italia. Ancora buonasera, Raffi. Raffi, mi sente? Buono. Non c'è. Va bene. Marco, concluda. Ostaggi di grandi e piccole mafie, c'è più liberalità, c'è più pensiero liberale in Beppe Grillo che in Bersani e Berlusconi messi insieme. Questi qua difendono solamente interessi di piccoli lobby, di piccoli gruppi, non c'è un pensiero aperto, non so come c'è negli Stati Uniti, una organizzazione in cui l'efficienza, l'efficacia, la meritocrazia, la forza vera di chi rischia in prima persona. Qua questi, prima di rischiare, vogliono avere già l'interesse assicurato. Così non andremo da nessuna parte, sarà sempre una lotta fra piccole e grandi mafie. Non c'è nessun statista. Guardi, che non ci sia in Italia competizione, che spesso il mercato sia tarpato, che spesso non vince il migliore, ma vince chi è più ammanicato, su questo non c'è il minimo dubbio, Marco. Bene, 20:34, 800 24 00 24, andiamo col TG2. Il PIL italiano cresce più della media europea e Tremonti e Berlusconi annunciano misure straordinarie per la libertà di impresa. Venerdì nero per euro e borse. Il ministro della giustizia Alfano sull'annunciata protesta dei magistrati contro la manovra. È uno sciopero politico, dice il guardasigilli. La NM, non è vero, i tagli sono punitivi. Benedetto XVI in visita a Cipro dice gli islamici sono nostri fratelli. Sul delitto di Monsignor Padovese è una vicenda che non ferma il dialogo. L'allarme influenza A fu montato ad arte per poter vendere i vaccini, l'accusa a OMS e case farmaceutiche dal Consiglio d'Europa e dal British Medical Journal. La scuola di teatro di Gigi Proietti compie 30 anni, gli aspiranti allievi di ieri, spesso affermati attori oggi, ricordano i provini degli inizi insieme al loro maestro. Bene, abbiamo l'onorevole Pietro Laffranco del PDL. Buonasera, buonasera, come sta? Tutto bene, tutto bene. Senta, ma io leggo che lei ha presentato un'interrogazione sostenendo che il sequestro di Iota di Briatore ha provocato un danno per l'Italia. Me lo può spiegare questa cosa? Ma guardi, io ho volutamente tenuto dei toni alti perché quando vedo delle cose che francamente non mi piacciono, credo che sia giusto utilizzare gli stessi modi e gli stessi toni con cui queste cose si sono svolte. Cioè lei ha fatto apposta a utilizzare questi termini? Ma certo, perché nel momento in cui si utilizza un dispiego di mezzi degno della cattura di un mafioso, si passa il filmato del sequestro dello yacht alle televisioni come è avvenuto per le catture dei grandi latitanti, e non si aspetta neppure che questa barca rientri nel porto, voglio dire, merita di essere sottolineata questa cosa. Cioè credo che nessuno debba essere ritenuto sopra la legge, ma non è che per il fatto di essere noti e famosi si debba essere trattati diversamente dagli altri. Però mi scusi Laffranco, lei esplicitamente con queste parole mette in discussione l'operato della Guardia di Finanza. Lei dice che siccome Brigatore, la Guardia di Finanza è dunque un personaggio famoso, lei dice troppi mezzi, sembrava la cattura di un mafioso, ha passato il filmato alle televisioni e poi successivamente dice anche bisognava aspettare. Aspettare tranquillamente che l'imbarcazione rientrasse al porto, cioè non credo che si trattasse di un latitante che stava per scappare, insomma. E dunque a mio avviso questa cosa andava sottolineata, perché troppe volte noi assistiamo a situazioni nelle quali si mettono alla gogna mediatica persone di tutti i tipi, famose e non famose, note o meno note, come dire, mettendoli in una situazione di grave difficoltà, di grave imbarazzo, con un documento d'immagine che vale per tutti, ripeto, si tratti di un avvocato, di un politico, di un imprenditore o di un normalissimo cittadino, salvo poi andare a verificare un po' meglio le cose, e troppe volte queste cose non sono quelle come le si presentano. Questo è un primo problema. Il secondo problema, ripeto, è quello dei mezzi, delle cose utilizzate. Insomma, sinceramente si potevano fare queste cose. Poi, se si verificherà che c'è stata una questione di natura fiscale che non è stata rispettata, io credo che come dire, la legge è uguale per tutti e su questo non ci piove, ma non mi pareva che fosse assolutamente necessario utilizzare, diciamo, delle modalità di questa natura. Senta, la Franco, però sorge un dubbio, per carità, lei fa bene a occuparsi anche di casi così eclatanti e non solamente Diciamo che non è il solo, insomma. No, vabbè, certo, però quando uno dice il sequestro dello yacht di Briatore è un danno per l'Italia, lei capisce di andare incontro ad un moto di impopolarità per questa sua affermazione. Lo so benissimo, ma insomma io credo che bisogna essere seri, nel senso che poi quando si verificano determinate cose si deve avere il coraggio di evidenziarle. Ecco, ma lei davvero pensa che il sequestro dello yacht di Briatore sia un danno per l'Italia perché diciamo, com'è che c'è scritto? Ma l'Italia è meta di turismo d'élite. Abbiamo e dunque i ricchi non verranno più in Italia? Non è detto, però è la stessa situazione che si poteva verificare quando fu impostata la famosa tassa per le barche che dovevano attraccare nei porti della Sardegna. In questo caso non significa mettere al riparo qualcuno da eventuali norme di legge, perché se ci sono state delle violazioni della normativa fiscale, questo verrà approfondito e verificato, e nel caso ovviamente ci saranno le sanzioni di qui sopra. Ma non c'è alcuna necessità di dare questo tipo di importanza mediatica a una roba che francamente non è né la cattura di un mafioso né di uno stupratore né tantomeno un grave caso di corruzione, per esempio in ambito politico. Qui stiamo parlando di un'eventuale situazione di mancato pagamento di accise sulla benzina, robe insomma, francamente non così gravi. E dunque lei pensa si è fatto un gigantesco caso mediatico e non capisco perché ora che i giornali riportino è giustissimo, perché la notizia c'è, nel senso che il caso è non c'è dubbio. Ma che si sia dato luogo a questa situazione, francamente, secondo me. Ecco, secondo lei la colpa di chi è? Cioè, chi è che ha deciso? Qualcuno che voleva farsi pubblicità? L'interrogazione serve per verificarlo, perché poi bisogna anche essere d'accordo, attenti. Però, insomma, lei adesso le interrogazioni sappiamo che vengono presentate, poi spesso si danno anche risposte generiche alle interrogazioni. Però se saranno generiche, noi andremo ancora più a fondo, nel senso che lei lo conosce Briatore, la primaria attività parlamentare. Però anche su questo, siccome poi quando si verificano queste cose, chi ne è oggetto? Quando ha torto, come dire, se lo tiene, ma quando ha ragione non riesce poi mai a ottenerla a pieno, allora andiamo a fondo su questa vicenda. Se c'è qualcuno che ha sbagliato, ovviamente se ne assumerà la responsabilità. Se c'è la Guardia di Finanza che l'ha fatto, se c'è il giudice per le indagini preliminari, se viceversa si verificherà che c'è stata una questione di natura fiscale omessa dal signor Briatore, e ne pagherà le conseguenze, fermo restando che sulle modalità continuo a mantenere la mia opinione. Ecco, ma insomma, cosa rimprovera lei esattamente? Cioè, la Guardia di Finanza avrà agito in base a come agisce sempre in questi casi quando si tratta del sequestro? Secondo lei, abbordando la nave in mare aperto? Cioè, nel senso, francamente, mi pare un po' eccessivo. No, non trova, non so. Cioè, non lo so, guardi, io non so come opera la Guardia di Finanza. Probabilmente se avessimo qui un capitano, un comandante, eccetera, darebbe la sua spiegazione. Assolutamente, sicuramente con maggiori pertinenze, diciamo così, tecniche delle mie. Però, ripeto, siccome io poi sono uno di quelli che ha sempre creduto e continua a credere nell'impegno, nel valore delle forze dell'ordine, provengo da una formazione politica di destra, d'Alleanza Nazionale, quindi come dire, se c'è uno che ha sostenuto e continua a sostenere questo operato, è proprio per questo certe vicende non sono accettabili. Mi dispiace, se lì c'era Matteo Messina Denaro, capo della mafia, primo ricercato d'Italia, andava benissimo, andava preso, impacchettato, mostrato alle televisioni di tutto il mondo, ma non c'era nessuna necessità di dare alle televisioni il filmato dell'abbordaggio dello yacht di Briatore. Senta, cioè, non c'ha senso. No, ho capito, però diversi ascoltatori nei giorni scorsi ci hanno fatto presente una cosa che non è del tutto peregrina. Cioè dire, quando succedono cose di questo tipo, e quando la Guardia di Finanza opera con questo dispiegamento di forze, il sequestro dello yacht e poi filmati, anche per dare una lezione, se vogliamo, cioè per far capire, per far vedere materialmente, visivamente alle persone, e beh, insomma, questo può succedere a chi magari. Perfetto. Quindi, no. quando no, allora, ma è una, però una... cerchiamo di mantenere. No, io capisco il ragionamento, poi, come dire, sono tutti ragionamenti validi fino a prova contraria. Ma allora, se questo è il meccanismo, e per un caso di eventuale mancato pagamento di IVA sull'importazione, sulle accise dei carburanti, si fa una roba di questo genere sotto il profilo del fatto di dare un esempio per cui nessuna. Allora, quando, torno all'esempio di cui sopra, si cattura un mafioso, che fa? Lo si scuoia sulla pubblica piazza e gli si dà fuoco perché così nessun altro fa il mafioso? Lo stato di diritto, quindi è, come dire, qui diamo gli esempi? Senta, ma lei Briatore da Matrix l'ha sentito? Questo funziona tra una maestra e un allievo. No, ma ho capito il suo ragionamento, non tra lo Stato, diciamo, tra un'istituzione e un suo cittadino. Se no non ci sono le leggi devono essere uguali per tutti, quindi questo lo ribadisco, però... Queste montature gigantesche sinceramente mi sembrano inutili, proprio non vanno a vantaggio del grande merito che ha la Guardia di Finanza. Sono di questi giorni le grandi operazioni per il recupero dell'evasione, migliorate negli ultimi anni, quindi, come dire, stiamo per farla diventare la quinta forza armata, per cui di fatto il comandante generale per la prima volta sarà un interno della Guardia di Finanza. Come dire, noi alla Guardia di Finanza ci teniamo, però se c'è qualcuno che si lascia un po' andare, va semplicemente. Senta, ma poi le parole di Briatore a Matrix, e ancora prima quelle della moglie sul trauma subito dal figlio, come le ha prese? Quelle lei? Di Briatore a Matrix non le ho ascoltate, sinceramente. Detto questo, voglio dire, poi si sa, quando si è direttamente coinvolti si può dire anche una parola di più e una parola di troppo. Insomma, io non sono l'avvocato difensore della famiglia Briatore. Per sottolineo carità. Un evento che può capitare a chiunque. Bene, grazie Franco, buona serata. Arrivederci, grazie. Grazie a voi. 20:43, questa è l'opinione di Pietro Laffranco, deputato del PDL. Michele da Pisa. Sì, buonasera Luciani. Dica. Io volevo intervenire perché in merito a quello che ha detto prima Terese e quello che ha detto lei dopo sul fatto che gli statali in Italia sono troppi. E quello che ha detto Terese è il fatto che voleva mettere il braccialetto agli evasori perché sono quelli che ruba. A chi vuole mettere il braccialetto agli evasori, mi scusi? Ecco, io volevo dire che tante volte anche in televisione non si è mai fatto rovesciata la domanda perché gli italiani evadono, cioè probabilmente perché le tasse che pagano non ritornano indietro in servizi adeguati, quindi significa che la macchina dello Stato non è in grado di elargire butta dentro nel calderone tanti miliardi e ne sperpera altrettanti, e quindi probabilmente l'italiano dice: io prima di darti a te 100 lire o un euro di tasse te ne do 0,50, così probabilmente poi dopo sono cavoli tua. È un discorso, diciamo, è un cane che si morde la coda, però probabilmente è dato dal fatto che lo Stato nella sanità, nella pubblica amministrazione, in questo caso Brunetti tante volte l'aveva detto all'inizio della legislatura, il fatto che aveva invitato purtroppo anche alla delazione del fatto dei suoi fannulloni, però è un luogo comune, però purtroppo. Ma insomma, lei che vorrebbe fare, no? Capito? Mettere il braccialetto agli statali? Fannulloni. Perché anche. No, mi scusi un attimo, Michele, lei cosa vorrebbe fare? Mettere il braccialetto agli statali? Non ho capito. No, non agli statali, agli evasori, lui aveva detto. Ho capito, ma che significa mettere il braccialetto agli evasori? Lui aveva detto che di mettere la manetta agli evasori, no? Per far vedere che sia un evasore. Questo l'ha detto Telesi un'ora fa, l'ha detto alla radio, l'aveva detto. Ecco, io ho detto, cioè, per quale motivo allora bisogna mettere, allora alla stregua dell'evasore, bisogna anche a quel punto licenziare in tronco, fare un decreto e poter licenziare in tronco uno statale che nel momento in cui timbra il cartellino, come si vede la striscia notizia nelle televisioni, poi prende e va a fare la spesa nell'orario di lavoro. Sì, no, ma infatti se si prende questa direzione, poi naturalmente tutto è giustificato. Grazie. Siamo qui 20:48, ultimissima parte della Zanzara insieme agli ascoltatori. Massimo da Roma, buonasera, velocemente Massimo, interventi più brevi. Buonasera a lei e a tutti. Allora, una tesi e una domanda. La mia tesi è questa: cioè, se un ministro, una grande carica pubblica, disprezza la Repubblica, i suoi simboli, eccetera, andrebbe sottoposto al giudizio della Corte Marziale. La domanda è questa: se Roma è ladrona e adesso c'è un gran numero di leghisti al governo, quando continuano a dirlo tuttora in questo periodo storico, si riferiscono a loro stessi? E questa è la domanda, io non so che ne pensa. Sì, Massimo, certamente nel Roma ladrona c'è molta ipocrisia da parte della Lega, ma è un vecchio slogan che viene ripetuto spesso come un mantra, ma insomma, ormai perde di sostanza perché poi la Lega occupa posti di potere, come dice lei. Paolo, sempre da Roma, buonasera. Buonasera a lei. Era per un intervento rispetto alla polemica che è uscita ultimamente sui giornali tra l'appartenenza alle logge massoniche e il fatto di essere iscritti al Partito Democratico, quindi sì. questo articolo che è un po' ambiguo all'interno dello statuto del partito. Io ritengo che questo sia un falso problema, perché anche se altri statuti di partiti in realtà poi pongono dei limiti e dei vincoli, in effetti il Grande Oriente d'Italia, che poi in realtà è l'istituzione massonica in Italia, in realtà ha le liste consegnate ai carabinieri e quindi anche alla commissione parlamentare che si occupa di vigilare su queste cose, e quindi gli iscritti all'istituzione sono persone conosciute sia dalle forze dell'ordine che dalle forze politiche. Quindi evidentemente, rispetto al discorso di segretezza, dopo tutto quello che è avvenuto con il problema della loggia P2, oggi la segretezza non c'è più, quindi il fatto comunque di creare questo problema evidentemente è più un problema interno al Partito Democratico per equilibri interni che non certo un problema rispetto all'opinione pubblica e alle forze dell'ordine, che realmente conoscono ogni singolo iscritto e in qualsiasi grado. Certo, no, ma guardi Paolo, il problema probabilmente non è quello del controllo dell'attività di queste persone, quanto piuttosto dicono quelli del Partito Democratico contrari al doppio tesseramento, chiamiamolo così, che insomma, se si risponde a una loggia segreta, un'organizzazione segreta che poi segreta non è, allora a quel punto non si può essere iscritti a un partito politico. Grazie. Giuliano da Parma, buonasera. Buonasera, volevo divertirmi un po' anche sull'affermazione di Telese di stasera. Che ci ha abbandonato questa sera perché sta insieme ai cassi integrati della Sardegna, che vuole fare? È giusto anche quello. Ma è giusto, questo bisogna vedere, ognuno ha le sue cose, le sue fissazioni. Lui è fissato con questi cassi integrati sardi, e vabbè. No, ma volevo un attimo, su quanto un'affermazione del tipo, 500 navi, 500 nuovi yacht pagassero almeno le tasse, no, in Italia. Sì. È un'affermazione populista, veramente sfornita di sostanza, perché oggi siamo ben contenti che almeno non ci sia la bandiera, perché la bandiera mercantile, lei dovrebbe essere a conoscenza che oramai da anni non esiste più nessuna nave mercantile con bandiera italiana, per cui è difficilissimo avere bandiere italiane, ma almeno le navi le fanno in Italia, perché qui il rischio è portarle a Hong Kong. No, ma è quello che ho detto io a Telese, cioè, si rischia con questa idea folle di Telese, si rischia di mettere a repentaglio l'industria nautica italiana, una follia. Ma sono affermazioni sciocche, non si possono fare così, buttate lì. Beh, si può, però Giuliano, si può anche provocare, poi ci si confronta, chiama lei che è contrario, è il sale di questa trasmissione. Grazie. Massimiliano da Brindisi, voglio difendere Telese. Massimiliano, dica. Massimiliano, non per quello che dice, ma per il fatto che possa dirlo, e che insomma, poi uno quando dice quando fa un'affermazione forte, c'è la possibilità sempre di rispondere, di chiamare. Massimiliano, dica. Sì, Luciani, buonasera. Io chiamo a proposito delle critiche che si stanno facendo. Non sentiamo niente. Maurizio, provincia di Padova. Buonasera, dottor Cruciani. Io ho chiamato, dopo aver sentito il presidente dell'ANM, Palamara si chiama, no? Sì. Per quanto riguarda i magistrati hanno già dato e non possono dare di più. Sospeso un po' che non deve essere toccato a nessuno, cioè è una cosa secondo me che è fuori logica, è una follia, insomma, cioè non tutti si chiedono sacrifici. Io personalmente, dopo tanti anni che facevo l'impiegato, che stavo bene, mi hanno messo in mobilità. Nel 98 avevo 44 anni. Vale il detto, troppo giovane, ovviamente non posso andare in pensione, ovviamente atleta, ma troppo vecchio per il lavoro, non ti vuole più nessuno. Ho capito. Se il curriculum ti vuole più nessuno, mi sono venuto alla testa, faccio l'operaio, però qual è il problema? Il problema è il lavoro. Ma sì, ma Maurizio, perché dalle proteste delle corporazioni, qualsiasi corporazione, non sto parlando di una corporazione specifica, sono legittime, però di questo si tratta, di questo si tratta, non di altro. Non di difesa della democrazia, eccetera, eccetera. Davide da Milano, buonasera. Sì, buonasera, Cruciani. Prego. Io faccio la missione per quello che è la fine da tutte le sere, come un momento per andare al bar in cui si fanno due chiacchiere. E come non stasera? Non ho capito, scusi, perché abbiamo una telefonata un po' disturbata. Stavo dicendo che ascolto la sua trasmissione tutte le sere. Sì. Perché per lo stesso motivo per cui è nella sigla, cioè è come un momento andare al bar, condivido molto spesso le sue opinioni e molto spesso ne sono non le condivido. Stasera quando ha intervistato la Meloni e che è riuscita a fargli dire che anno zero e quindi Santoro è di parte, ma Menzolini lo è, quel momento di imbarazzo, quei pochi secondi in cui non si aspettava quella domanda e lei gliel'ha fatta, e come se posso, come mai mi fa una domanda, mi metti in imbarazzo e devo dire che Menzolini non è di parte, è stato un motivo buono anche questa sera per ascoltare la sua trasmissione, glielo volevo dire. La ringrazio, ci sentiamo lunedì 18:30, ciao. Fratello, ricordati che devi morire. Fratello, vatti a coricare.